Buongiorno Palestina, anche oggi, mercoledì, parliamo come sempre della Palestina per mezz'ora dalle 19 alle 19.30 su Radio Wombat. Oggi abbiamo in studio Leo e Gianna e parleremo di BDS, di boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, antisemitismo, apartheid, insomma. Temi che, su cui ritorneremo ancora, perché la mezz'ora non ci basterà per parlare di questo, ne abbiamo già parlato, ma ci sono fatti anche recenti su cui è bene ritornare e riparlarne, sia oggi che prossimamente. Leo. Buongiorno. Prima di parlare del BDS, magari è doveroso ricordare che questo mese, esattamente il 27 di novembre, c'è la 42esima giornata ONU di solidarietà con il popolo palestinese. In Italia si svolgerà un grande convegno a Milano, esattamente il primo di dicembre. Allora, fa riferimento alla General Assembly Resolution 32 di 40B del 2 dicembre del 1977. Ogni anno, allora, va ricordato il popolo palestinese, la sua sofferenza, soprattutto le ingiustizie. Il secondo argomento che non vogliamo dimenticare è che 4 giorni fa, 5, è stata un'altra volta arrestata una alta dirigente del partito della resistenza palestinese o FPLP del Fronte Palestina, Khalida Jarar, che a questo punto è stata arrestata la terza volta. È stata ultimamente in carcere per 20 mesi, è stata appena rilasciata a febbraio, adesso di nuovo durante la notte hanno fatto l'irruzione in casa e non hanno spiegato naturalmente il motivo dell'arresto, ma noi l'arresto è chiaro perché lei è una deputata, si può dire il numero due, perché il numero uno del partito del fronte è in carcere e quindi hanno un'altra volta arrestata. E bene ricordare, c'è la cosiddetta, possiamo tradurre in italiano, imprigionamento amministrativo, oppure secondo una legge antica britannica, possono arrestare, mettere in carcere a tempo addirittura indeterminato delle persone che non vanno bene agli israeliani, che sono politici, possono essere anche addirittura bambini. E questa Khalida ha già fatto la detenzione amministrativa dal 2005 al 2007 e quindi questa è una delle tante ingiustizie. Ma vogliamo parlare del BDS. Il BDS, come giustamente ha detto Claudio, l'abbiamo già almeno menzionato, magari non approfondito, due volte, è bene ricordare che nel 2005 è stato fondato questo movimento che viene dalla società civile palestinese che ha come compito, come obiettivo, come Claudia ha detto, il boicottaggio, il disinvestimento e delle sanzioni. Le persone singole, come noi, possiamo soprattutto fare che cosa? Boicottare sia i prodotti che gli eventi culturali. Ma volevo parlare delle campagne attuali, che il BDS sia internazionale e italiano propone. Attualmente c'è la campagna Spazi Liberi dall'Apartheid Israeliana, abbreviazione SPLAI, che si rivolge a luoghi, movimenti sociali, associazioni e istituzioni che hanno a cuore i principi di libertà, giustizia e uguaglianza. In tutta Italia, vari enti hanno partecipato o partecipano a questa campagna. Promuove la creazione di una rete di spazi virtuali e fisici che si dichiarano liberi da ogni forma di discriminazione e si impegnano a non intrattenere rapporti con sistemi di ingiustizia e oppressione. Solo virtuali? No, hai No, parlato di sì, virtuali, volevo sapere se c'erano anche no, no, fisici. grazie, Gianna, anche fisici. Naturalmente, come ho detto, associazioni, anche qualche comune, è una cosa che c'entra almeno parzialmente con questa campagna che ci è arrivata la settimana scorsa, e leggo un breve comunicato con una storia decisione. Il Consiglio Comunale di Oslo vieta l'accesso ad appalti pubblici di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani. Il divieto di merci provenienti da questi insediamenti illegali di Israele nel territorio palestinese occupato fa parte della piattaforma recentemente adottata per il 2019 fino al 2023, approvato dal nuovo Consiglio Comunale di Oslo. Queste sono campagne concrete. Naturalmente, noi invitiamo tutti a non acquistare e altri naturalmente esercenti, non vendere prodotti e, come abbiamo visto prima, Oslo, servizi di imprese israeliane che sono implicate nella violazione dei diritti di palestinesi. Per quanto riguarda i prodotti, vorrei ricordare la campagna che noi ormai 7-8 anni fa abbiamo lanciato, a non comprare Soda Stream, sono questi gassificatori per la gente che assolutamente vuole le bollicine, che è di un'impresa israeliana che si trova nei territori occupati. Abbiamo lanciato questa campagna, se vogliamo, contro la Coop, perché la Coop continua a vendere questo prodotto. State attenti allora sia nei grandi supermercati, Coop e anche naturalmente altri, Esselunga, dove trovate sicuramente frutta e altro che non è Certo. che non è da comprare. Quindi attualmente c'è una campagna da parte degli amici di Israele, che ricordiamo i maggiori amici di Israele non sono ebrei, ma sono laici, sono cristiani, sono gruppi presenti in tutta Europa e molto potenti anche, sono una lobby. Ecco, c'è una campagna da parte di questi per l'identificazione del BDS cioè del boicottaggio di Israele con l'antisionismo, l'antisionismo totale, cioè comunque la cancellazione dello Stato di Israele, perché si chiede addirittura, si lamenta il tentativo di delegittimare l'esistenza stessa dello Stato di Israele, e l'antisemitismo, cioè BDS uguale antisionismo uguale antisemitismo. Ecco, questo è un vulnus concettuale fondamentale. E su questo ritorniamo adesso, appena dopo l'intervallo musicale. قلبي سلام لبيروت وقبل من البحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من Dunque, riprendiamo allora da dove ci eravamo lasciati, e cioè su questi tentativi molto, molto profondi da parte dei gruppi filo-israeliani di quello che loro chiamano contrastare l'antisionismo nel mondo giovanile. Ecco, su questo ci sono iniziative in atto, su cui ci parlano adesso sia Gianna che Leo. Beh, allora, io sono un'esperienza, diciamo così, diretta tramite una persona che ho conosciuto, che sta frequentando proprio, è un insegnante, sta frequentando un corso organizzato dalla Sinagoga di Firenze. E beh, sembra che in questo corso si parlerà solo della Shoah, della memoria. Alla fine del corso, che dura circa un anno, e ci sarà un viaggio. Questo viaggio naturalmente viene pagato con il bonus cultura per gli insegnanti, così. Nello Stato italiano. Nello Stato italiano, certamente, nello Stato italiano. Non so ancora i contenuti, ma spero che questa persona presto, insomma, mi dirà anche, ha partecipato solo a uno di questi, perché sono, diciamo, incontri mensili, e quindi passo Leo. Ok, bene, comunque già da anni c'è questa campagna di diffamare BDS e tutti quelli che denunciano la lesione di diritti internazionali da parte di Israele, ma anche personaggi come il nostro ex presidente della Repubblica ha voluto confondere, io uso propriamente questo termine, confondere antisemitismo e antisionismo. C'è una grandissima differenza. Indubbiamente c'è una rete internazionale, come Claudio ha menzionato, anche i pentecostiani, questi neocon che sposano il cristianesimo con la destra della politica, che hanno creato una rete internazionale, da Bolsonaro, il presidente del Guatemala, Pence, che è il vicepresidente degli Stati Uniti, contro tutti quelli che sono a denunciare la lesione dei diritti internazionali da parte di Israele. Ma andiamo magari a definizioni, così ci capiamo meglio. Il BDS ha definito il loro impegno contro il sionismo come: rifiutiamo il sionismo in quanto costituisce il pilastro ideologico, razzista e discriminatorio del regime di occupazione israeliano, degli insediamenti coloniali e dell'apartheid, che ha privato il popolo palestinese dal 1948 dei suoi fondamentali diritti umani. Ah, volevo ricordare a questo punto che Marek Edelman, che fu uno dei capi della rivolta del ghetto di Varsavia, era un totalmente antisionista. Ecco, non credo che si possa accusare Edelman di essere stato antisemita, ecco. Bravo, Claudio. Come sono altri ebrei che vivono o in Israele o fuori, che appunto sono contrari al sionismo, anche tanti rabbini, nonché la Jewish Voice for Peace, che è una grande organizzazione ebraica laica degli Stati Uniti, che sono anti-sionisti e sostengono BDS. Magari torniamo su questo argomento, perché ai loro rappresentanti è stato emesso il divieto per entrare in Israele. Sarebbe interessante ora confrontare la definizione dell'antisionismo con quelli del dell'antisemitismo. Purtroppo, vi dico purtroppo, nel 2016 il cosiddetto International Holocaust Remembrance Alliance, è un'alleanza di ebrei che hanno voluto definire che hanno voluto creare una nuova definizione dell'antisemitismo. Io direi per me, parlo naturalmente di titolo personale, per me antisemitismo vuol dire discriminare ebrei, la discriminazione ebraica. Per me è molto chiaro e noi non siamo antisemiti. Va rispettata la storia degli ebrei, la Shoah, per esempio oggi c'è una manifestazione simbolica a Firenze per ricordare la deportazione degli ebrei e noi indubbiamente siamo solidali, ma non siamo solidali con questa nuova interpretazione. Allora io vi cito questa interpretazione del 2016. L'antisemitismo è una percezione specifica degli ebrei che può esprimere l'odio nei confronti degli ebrei. Già qui dentro, e poi vi leggo un'expertise fatta su richiesta della Fondazione Rosa Luxemburg di Berlino. Una fondazione che già da anni combatte l'antisemitismo e quindi hanno dato l'incarico ad un professore, un sociologo, a analizzare questa definizione. E lui già nella prima fase dice: cosa vuol dire percezione? Cosa vuol dire l'odio? E dice, per esempio, soltanto odio? Allora, e poi vanno avanti, adesso diventa più pericoloso. L'antisemitismo si esprime a parole o con azioni contro individui o ebrei o non ebrei e le loro proprietà, nonché contro le istituzioni della comunità ebraica e le istituzioni religiose. Le manifestazioni di antisemitismo, adesso tenetevi forte. Possono essere anche dirette contro lo Stato di Israele, che è inteso come un collettivo ebraico. In altri termini, questa interpretazione, questa definizione, lo chiamano programma operativo, definizione operativa, apre le porte a qualsiasi, diciamo, contro qualsiasi persona che è contro le misure anticostituzionali e contro la legge internazionale dello Stato israeliano. Tuttavia, le critiche, che sono paragonabili a quelle di altri paesi, non possono essere considerate antisemite. Questo lo scrivono a parte. E poi fanno esempi. Cosa vuol dire antisemitismo? Confronto dell'attuale politica israeliana contro politiche nazionalsocialiste. Io vi dico una cosa molto personale. Quando io vidi il film Schindler's List e vidi come quel ghetto ebraico fu circondato, come si sono comportati i nazisti, SS e altri nei confronti della popolazione ivi resistente, questo è stato qualche anno fa. Nello stesso periodo la stessa azione fu fatta in vari paesi e quartieri della Cisgiordania, occupata da Israele. A me è venuto in mente, dice, questi sono metodi nazisti. Quando io es avevo espresso questo pensiero nei confronti di un mio compagno e amico ebraico israeliano, a suo tempo in Germania, era l'ospite lì in una riunione di anarchici e gente di sinistra mi volevano saltare addosso. Quindi non è confrontabile i crimini nazisti con quelli attuali Israele. di Israele. Io non ho voluto fare un confronto totale, ma che Israele usi metodi nazisti, metodi di oppressione nei confronti del popolo palestinese, come anche conquista della terra, rubare acqua, rubare la terra, mettere bambini di 14 anni, come ho letto recentemente, una denuncia di Adamir, che è un'associazione israeliana, e un'altra associazione israeliana e palestinese, che denunciano questo fatto, che arrestano bambini che hanno appena in mano, magari nel pugno, un sasso, e anche a loro viene applicata questa amministrazione Detenzione amministrativa. detentiva, e mettono addirittura, come ho letto qualche giorno fa, proprio fa paura a questi bambini, li mettono in gabbie anche all'aperto, e anche questo per una settimana. Ecco, a proposito di questo, delle simpatie fasciste che ci sono state nell'ambito del mondo ebraico, va ricordato che molti ebrei italiani, cioè gli ebrei in Italia furono tendenzialmente fascisti, questo prima della guerra. Poi, dopo la guerra, c'è stata la resistenza, c'è stata la reazione anche da parte del mondo ebraico. Però nel ventennio gli ebrei erano tendenzialmente fascisti. Ora, però, sugli aspetti invece più gravi, su come certi aspetti veramente del fascismo, del nazismo, sono ancora presenti anche nella società israeliana, ci dice qualche cosa Gianna, tra poco, dopo il secondo intervallo musicale. E in particolare ci dirà alcune affermazioni che vengono fatte da personaggi molto importanti nel mondo rabbinico israeliano. Allora, su questo, Gianna, dimmi qualche cosa a proposito di queste affermazioni. Sì, Claudio, do voce a un articolo che è stato pubblicato un po' di tempo fa da Invicta Palestina, tra l'altro. Il titolo è interessante: Lo stupro di una donna non ebrea è bottino di guerra. È emerso infatti che un importante rabbino israeliano abbia sostenuto il genocidio a Gaza, affermando inoltre che i soldati possono stuprare durante la guerra. E scrivendo su un popolare sito in lingua ebraica, Eliyahu ha sostenuto appunto che i soldati israeliani perderebbero la loro motivazione a vincere la guerra se non fossero autorizzati a violentare le donne, ovviamente non ebree, palestinesi si suppone. Questa cosa abbastanza, diciamo, pesante, è stata addirittura pubblicata anche su una rubrica. Cioè queste dichiarazioni sono state pubblicate su una rubrica chiamata Chiedi al rabbino. Il rabbino Samuel Eliahu suggerì che una legge biblica autorizzerebbe la violenza sessuale in determinate circostanze e ovviamente la guerra era una di queste. Il fatto importante è che le donne in questo caso possano essere considerate proprio bottino di guerra. Inoltre, dichiarava che il militare non doveva essere indebolito nel suo spirito e quindi non gli si doveva proibire di appropriarsi di qualche donna se, di cui lui evidentemente insomma, si sentiva in quel momento invaghito, per usare un eufemismo. Dopo aver giustificato la violenza sulla donna, Eliau peggiora la sua dichiarazione dicendo che incolpa la vittima chiedendosi appunto che non sia proprio lei che sia stata creata apposta, probabilmente per un intervento divino, per farsi desiderare e poter incriminare poi eventualmente il soldato. E questo è tutto. Ripasso la parola a Leo. Allora, torniamo al BDS. Come qualcuno si ricorda, purtroppo il governo tedesco, se no, non il Parlamento, ha sposato questa definizione imprecisa di antisemitismo di cui abbiamo parlato prima. E che cos'era successo? Il 17 maggio di quest'anno, la stragrande maggioranza del Bundestag del Parlamento tedesco, appunto, sposando la definizione, cosiddetta definizione operativa, dell'antisemitismo, ha etichettato il movimento BDS come antisemita, tout court. Va ricordato che già prima la Merkel, la cancelliera tedesca, ha dichiarato la sicurezza. Io dico la cosiddetta sicurezza di Israele come ragion di Stato della Germania. Quindi tutto quello che giova a Israele va bene, nessuna critica a Israele è permesso e come ha fatto l'ex presidente dello Stato italiano, confondendo antisemitismo e antisionismo. E per la Merkel e per tutto il governo, tutti quelli che criticano Israele sono antisemiti. È stata una cosiddetta super grande coalizione, perché quasi tutti i partiti, tranne la Linke, hanno votato questa condanna. Soltanto alcuni dei Verdi e dei socialdemocratici si sono astenuti. C'è comunque da aggiungere che c'era anche prevista da parte di Verdi, Socialdemocratici e Linke un emendamento in cui appunto si dichiarava che la critica allo Stato di Israele non vuol dire antisemitismo. È molto importante ricordare che c'è stata una presa di posizione molto interessante di 240 scienziati, artisti, accademici, gente famosa di Israele, vuol dire ebrei, in cima a Amos Goldberg, che hanno condannato questa risoluzione. Hanno scritto una lettera aperta che purtroppo i parlamentari tedeschi non vollero ascoltare o leggere. E di conseguenza sono iniziati o proseguiti dei divieti per spazi comunali a Monaco, di Baviera, a Francoforte, a Berlino. E soprattutto il divieto di parlare in eventi pubblici, sostenitori del BDS e anche stranieri a cui hanno tolto addirittura il permesso di soggiorno, oppure artisti. Di cui era chiaro che erano sostenitori del BDS. Ecco, Leo, poi questo è paradossale che da parte della Germania ci sia così tanta ferocia nei confronti del boicottaggio di Israele, quando è proprio in Germania che c'è la maggior parte degli episodi di antisemitismo vero, di quello che proviene dalla destra e che è contro gli ebrei, non contro Israele. Per me che sono tedesco non è una cosa nuova, perché mentre prima alcuni storici volevano incolpare tutto il popolo tedesco di questo grande debito nei confronti degli ebrei, che sarebbe in teoria anche giusto, perché indubbiamente la Germania ha una grande responsabilità verso gli ebrei in toto, ma non soltanto verso lo Stato israeliano. D'altra parte non si può parlare della nostra generazione, della mia o ancora più giovani, che loro fanno parte di questa colpa collettiva. Allora, che cosa succede? Che i primi governi tedeschi hanno naturalmente risarcito Israele in una maniera molto generosa, sono stati investiti miliardi di marchi. E che cosa fa ora? Fa ora il governo Merkel come i governi precedenti? Allora, fanno una specie di whitewashing, no? Allora, vogliono cancellare questa responsabilità che hanno per quanto riguarda la storia tedesca dell'Olocausto, le grandi colpe, la responsabilità, sostenendo in toto Israele, ma senza Ecco, ma distinzione. scusa, è quello che hanno fatto anche nel 1951. Lo Stato tedesco ha dato un sacco di soldi a Israele, riconoscendo Israele come luogo dove scaricarsi tutta la sua coscienza, cioè come se Israele fosse il luogo di tutti gli ebrei. Ma Israele è uno Stato tra altri stati, non è che sia il luogo degli ebrei, vorrebbe essere il luogo degli ebrei, ma di fatto non lo è, perché nell'ambito dell'ebraismo ci sono anche molti che non sono per niente d'accordo sul fatto che Israele debba essere il luogo degli ebrei. Hai completamente ragione, perché mentre i risarcimenti individuali sono arrivati negli Stati Uniti, da parte della Germania ovviamente, no? Per i perseguitati e sopravvissuti negli Stati Uniti, in altri paesi, addirittura in Israele, dove sono arrivati questi miliardi, gli individui, vuol dire le persone che sono riuscite a sfuggirsi, in tanti casi non sono arrivati soldi. C'era poi una sentenza di un tribunale israeliano che finalmente ha fatto sì che i pochi che sono ancora vivi hanno ricevuto qualcosa. Ecco, a proposito, come luogo degli ebrei, negli Stati Uniti ci sono altrettanti ebrei che in Israele, forse anche di più. E meno male che negli Stati Uniti non c'è soltanto l'AIPAC, che è questa grande organizzazione filo israeliano ebraica, c'è anche ci sono i GVP, Jewish Voice for Peace, una grande organizzazione laica ebraica americana, US-americana, che sostiene non solo l'ipotesi, chiamiamo due stati, due popoli, ma soprattutto i diritti dei palestinesi. Scrivono: è impossibile che gli abitanti in Israele stesso, no? Gli ebrei vengano trattati in un modo e i palestinesi presenti, che sono quasi 2 milioni, in un altro modo. E poi soprattutto l'oppressione in Cisgiordania. Ma in Germania è andato addirittura oltre di quello che abbiamo parlato prima. Adesso è cominciato la caccia alle streghe, che chiamo io, anche degli ebrei. Ossia, devo essere più preciso, che cosa succede se un artista, un personaggio di fama magari pubblica, tedesco-israeliana oppure tedesco di origine ebraica, si esprime per BDS o semplicemente critica Israele, le politiche di Israele nei confronti palestinesi, viene diffamato come antisemita. E poi organizzazioni intere tedesche, esiste come in tutta Europa, gli ebrei contro l'occupazione, esiste l'organizzazione anche in Germania, e questa è stata diffamata, hanno tolto addirittura il conto corrente. E quindi una attrice tedesco-israeliana che ha preferito di lasciare Israele per le ingiustizie laggiù, per vivere in Germania, ha detto: adesso se io voglio esibirmi, voglio fare il mio concerto da qualche parte, mi fanno il check-up antisemita. Siamo arrivati alla follia e ebrei o israeliani, sono tedeschi o non tedeschi, che si esprimono per BDS o contro la politica di Israele, vengono dichiarati antisemiti. Ecco, questo termine antisemita viene attualmente utilizzato un po' in modo del tutto strumentale. Ora, Richard Falk, che è un ebreo, è un giornalista e pubblicista, ha classificato i tipi di antisemitismo come uno, vecchio antisemitismo, cioè l'odio verso gli ebrei e pratiche discriminatorie e di giustizia sommaria nei confronti degli ebrei. Poi il cosiddetto nuovo antisemitismo, quello che è l'etichetta appiccicata ai critici di Israele. Quello è quello che gli amici di Israele dicono che è il cosiddetto antisemitismo di sinistra, cioè chi critica Israele diventa antisemita. Ma soprattutto Falk sottolinea il nuovo antisemitismo, che è vero, che è reale, e che è l'odio verso gli ebrei e il contemporaneo sostegno a Israele da parte di gruppi fascisti e razzisti. Ecco, questo sì che è quello grave e su cui ci sono continuamente degli episodi in Germania. Leo. E meno male, e non quello di cui viene accusato il movimento BDS. Ma 2 settimane fa abbiamo letto una cosa molto importante, che l'ufficio del commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, l'ex presidente del Cile, ha criticato fortemente questa risoluzione di cui abbiamo parlato prima del Parlamento tedesco, e hanno detto: la risoluzione interferisce in modo sproporzionato con il diritto di esprimere le proprie opinioni politiche in Germania, in particolare di esprimere il proprio sostegno al movimento BDS. Hanno invitato una lettera al ministro degli esteri tedesco, firmato da 5 relatori speciali delle Nazioni Unite, per esempio il responsabile della protezione della libertà di espressione, il responsabile della situazione degli attivisti per i diritti umani e così via. Questi funzionari delle Nazioni Unite hanno chiesto anche della sorte di un emendamento che la Linke aveva e altri Verdi avevano voluto inserire in questa risoluzione, ma non sono riusciti, e hanno di nuovo espresso la critica della politica del governo israeliano e protetta dalla libertà di espressione e dalla libertà di riunione, e invitano il governo federale entro 60 giorni di spiegare quali implicazioni legali della risoluzione del Bundestag e in che modo questa risoluzione sia compatibile con gli obblighi della Germania di proteggere i diritti umani internazionali. Ossia, siccome gli attivisti del BDS sostengono soprattutto la difesa dei diritti internazionali in Israele, quello che non fa, che lede Israele stessa. Nella West Bank e nei territori occupati. Allora, siccome il BDS vuole proteggere questi diritti, sembra che la risoluzione del Bundestag leda questo diritto internazionale, e il governo tedesco deve rispondere per quanto riguarda questa accusa, e soprattutto che gli attivisti del BDS possano nominare le violazioni di diritti umani senza indebite restrizioni. Questa è una sentenza, secondo me, molto importante. Ecco, BDS quindi, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni. Ma perché? Chiediamoci come mai su questo termine c'è e su questa pratica c'è tutto questo scontro e tutti legiferano o si scontrano o comunque ci sono tutti questi dissensi. La risposta è perché il BDS, il boicottaggio attualmente applicato allo Stato di Israele, è efficace ed è efficace soprattutto perché è una forma di lotta, è una forma di lotta che dà dei risultati ed è una forma di lotta pacifica e questo probabilmente è il motivo per cui è così efficace. Con questo vi salutiamo, vi ringraziamo del vostro ascolto e vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo. Grazie. أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلكم قابوس أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلكم ترابك كانوا قوم وتفكروا